Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un caro saluto. Ci prepariamo a vivere questo nostro appuntamento mensile, il cui obiettivo è proprio quello di lasciarci guidare dalla parola di Dio. Stiamo vivendo un percorso di lezione continua sugli Atti degli Apostoli, il testo che ci ha accompagnato in modo particolare, soprattutto in questo tempo liturgico di preparazione alla solennità di Pentecoste che vivremo domenica prossima. Ecco, negli Atti degli Apostoli noi viviamo e assistiamo allo scandire della missione cristiana, dei primi passi della comunità cristiana, tutti sulla scia sotto la guida dello Spirito Santo. E anche nel testo che insieme commenteremo e ascolteremo questa sera noteremo come il vero protagonista dietro l'azione degli Apostoli è sempre lo Spirito. Attraverso di lui la parola corre e raggiunge le comunità, spalancando orizzonti nuovi e aprendo dei percorsi inediti. All'inizio di questa trasmissione vi chiedo di invocare il dono dello Spirito perché siamo un po' tutti al termine di una giornata e quindi alla fine di una giornata si è affaticati dai pensieri, dai lavori, da quanto si è affrontato. Immagino che alcuni anche di voi che sono in ascolto magari arrivano dopo una giornata in cui la malattia anche si è fatta sentire, la solitudine si è fatta sentire. Allora è il momento migliore per presentare tutto questo al Signore e trasformarlo in preghiera, perché la sua parola possa essere efficace e sanare prima di tutto i nostri cuori. Chiedo a quanti hanno la possibilità di farlo di tenere davanti a sé un'edizione della Bibbia o del Nuovo Testamento e di aprirlo al capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. La volta scorsa abbiamo commentato insieme l'episodio della rivelazione di Paolo sulla via di Damasco. Oggi il racconto continua con una sorta di intermezzo che precede la grande rivelazione di Pietro. Ecco, gli Atti degli Apostoli continuano a seguire una modalità che è tipica della narrazione lucana, no? Che è quella di presentare la stessa scena due volte con due protagonisti diversi. Pensate ad esempio all'inizio del Vangelo di Luca, alle due annunciazioni, quella a Zaccaria e quella a Maria, i due cantici, il Benedictus da un lato e il Magnificat dall'altro. Così avviene anche negli Atti degli Apostoli. Negli Atti degli Apostoli abbiamo due rivelazioni, due grandi momenti di conversione, per Paolo sulla via di Damasco, per Pietro sulla via di Cesarea. Ecco, tra queste due grandi rivelazioni, che sono anche momenti di conversione, ci sono due episodi anche qua di guarigione. Anche questi costituiscono una sorta di dittico, uno coinvolge una figura maschile, Enea, l'altra coinvolge una figura femminile, Tabità. Ecco, il racconto che insieme mediteremo questa sera si snoda dal versetto 32 del capitolo 9 fino al versetto 43. Il primo passo che facciamo è quello di leggere il testo, dopodiché riprenderemo i due episodi e li commenteremo analiticamente l'uno con l'altro. Ascoltiamo il testo. In uno dei suoi viaggi, Pietro scese a visitare i santi che abitavano a Lidda. Qui trovò un uomo di nome Enea, che da 8 anni giaceva su di un letto perché era paralitico. Pietro gli disse: «Enea, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto». Subito si alzò, tutti gli abitanti di Litta e del Sharon lo videro e si convertirono al Signore. A Joppe c'era poi una discepola di nome Tabità, che significa gazzella. Faceva molte opere di carità e distribuiva molte elemosine. In quei giorni si ammalò e morì. la lavarono e la deposero al piano di sopra. Essendo lì vicino a Joppe, i discepoli, udito che Pietro si trovava in quella città, inviarono da lei due uomini a pregarlo: vieni da noi senza indugio. Pietro si mise in viaggio con loro. Appena giunto, lo condussero al piano di sopra. Gli si fecero attorno le vedove che piangevano e mostravano le tuniche e i mantelli che Gazzella confezionava quando era con loro. Pietro, fatti uscire tutti, si mise in ginocchio e pregò. Poi, rivolto al cadavere, disse: Tabità, alzati. Ella aprì i suoi occhi e, veduto Pietro, si mise a sedere. Egli le diede la mano e la fece alzare. Poi, chiamati i santi e le vedove, la presentò loro viva. La cosa si riseppe in tutta Joppe e molti credettero nel Signore. Pietro rimase parecchi giorni a Joppe in casa di un certo Simone, conciatore di pelli. Bene, questo è il brano su cui questa sera ci soffermeremo. La prima cosa che balza subito all'ascolto della narrazione è l'abbinamento, ancora una volta, di un uomo e una donna. Cioè il racconto appoggia sull'elemento della coppia. Noi abbiamo già sottolineato come dall'inizio del Vangelo Luca procede per coppie, da Zaccaria e Elisabetta, a Maria e Giuseppe, che sono coppie reali nella vita, a Simeone e Anna, uomo e donna quindi, al centurione e alla vedova di Nain nell'ambito dei miracoli, così anche nel racconto delle parabole, c'è la parabola del buon pastore e quella della dramma perduta. C'è il lievito che fermenta la massa e il seme che viene messo dal seminatore nella terra, cioè sono sempre parabole al maschile e al femminile. E le coppie non mancano neanche nel racconto degli Atti degli Apostoli. All'inizio, al capitolo 5, abbiamo visto nel peccato delle origini della comunità cristiana la coppia Anania e Saffira. Più avanti incontreremo una coppia chiave in quello che è il ministero di Paolo, la coppia di Aquila e Priscilla. Verso la fine degli Atti degli Apostoli, nella testimonianza di Paolo al mondo romano, troviamo coppie come Felice e Drusilla, Agrippa e Berenice. Quindi abbiamo praticamente tutta una serie di coppie che sembrano evidenziare non solo l'attenzione del narratore per la dualità uomo-donna, ma anche la sottolineatura che nel cristianesimo delle origini non era praticata alcuna discriminazione nei confronti di questo ambito della società, l'ambito del femminile, che la cosa non era scontata, ecco, nel primo secolo non è che poteva avere in tutti gli ambiti dei ruoli di primo piano. Ora, nel racconto lucano, che comprende Vangelo e Atti degli Apostoli, le donne giocano un ruolo chiave. Del resto, già nel Vangelo, al capitolo 8, l'Evangelista si era premurato di sottolineare, accanto al discepolato maschile, quello femminile. I primi tre versetti del capitolo 8 sono dedicati proprio dall'Evangelista Luca per sottolineare che accanto ai discepoli c'erano anche delle donne che seguivano e servivano la comunità e che erano delle figure chiave al suo interno. Ugualmente nella fotografia che viene scattata della prima comunità cristiana nel primo capitolo notiamo che in quel primo nucleo costituito da 120 persone viene ben precisato che oltre ai 12 c'erano alcune donne e i fratelli di Gesù. Ecco, le donne costituiscono un nucleo chiave del primo gruppo. Quindi questo è il primo elemento che emerge, una comunità dove il maschile e il femminile si completano a vicenda nella loro caratteristica, nelle caratteristiche che sono loro proprie, senza alcuna forma di discriminazione. Secondo aspetto che emerge dal racconto è che i due episodi, la visita a Lidda da Enea e la visita a Joppe Giassa da Tabità, hanno tutta una serie di elementi in comune. sono praticamente due racconti sinonimi e paralleli, dove però si assiste a un crescendo tra l'uno e l'altro. Quindi notiamo ad esempio che in tutti e due i casi il malato viene chiamato per nome, che è una cosa piuttosto rara. Da un lato abbiamo Enea, che giace paralitico, dall'altro abbiamo Tabitha, che è morta. I membri della comunità sono chiamati allo stesso modo, sono chiamati i santi, una terminologia molto significativa nel racconto degli Atti degli Apostoli, perché ci fa capire che la comunità è il contesto in cui il risorto può vivere e agire, e lo manifesterà soprattutto nell'azione di guarigione di Enea e di risurrezione, di ritorno alla vita di Tabitha. La parola che guarisce in tutti e due i racconti è la medesima, viene tradotta in italiano con l'imperativo alzati, però in greco questo imperativo ha un significato molto più forte, non significa solo un alzarsi in piedi, indica lasciare spazio, aprire le porte all'azione del risorto. Il verbo utilizzato è il verbo della risurrezione, quindi è come invitare le persone presenti e le persone toccate dalla malattia da un lato e dalla morte dall'altro, aprire le porte all'azione del risorto. Il miracolo in tutti e due gli episodi è attribuito esplicitamente al Cristo e infine, stranamente, rispetto ad altri racconti di guarigione, la fede non è menzionata. Quasi non è necessario il coinvolgimento della fede del soggetto, dei soggetti coinvolti, ma è sufficiente la fede che Pietro mette in quel momento nella sua azione taumaturgica. Quindi questi due aspetti, di parallelismo ci fanno capire come l'uno e l'altro brano sono proprio in parallelo l'uno con l'altro. C'è però un crescendo tra l'uno e l'altro. Nel primo è solo la guarigione di una malattia pur prolungata nel tempo, però è la guarigione di una malattia. Nel secondo caso invece è la sconfitta della morte. La persona torna in vita. Cosa vuol dire questo? Mentre il primo indizio, quello del maschile e del femminile, dice che la prima comunità cristiana è una comunità dove non c'è alcuna forma di discriminazione e dove tutti vengono accolti per quello che sono, Cristo è presente e agisce tutto in tutti, in questo secondo elemento del parallelismo notiamo il crescendo, per cui il narratore vuole sottolineare che l'azione del risorto è sempre più forte all'interno della comunità. Non è come succedeva a Mosè nel deserto, che si presentava a Dio all'interno della tenda, tra l'altro questa è la riflessione che farà l'autore dello scritto agli ebrei nel Nuovo Testamento, non è come Mosè che si presentava al Signore nella tenda, usciva col volto luminoso, però con l'andare dei giorni quel volto diventava sempre meno luminoso, perdeva di luminosità, per cui per conservare la luminosità si metteva un velo sul volto. No, nel caso della comunità cristiana la presenza del risorto diventa sempre più viva e più efficace, passando dalla guarigione delle malattie alla capacità di sconfitta della morte. C'è poi un terzo elemento che merita di essere sottolineato prima di passare all'analisi dettagliata dei due brani, ed è il ruolo di Pietro. In questa scena noi abbiamo il dipinto del volto di Pietro diverso dal solito. E Pietro lo conosciamo per essere l'apostolo, per essere il predicatore. Qui diventa l'autoritratto che ci presenta di se stesso Pietro, è quello di un missionario itinerante, non è in questi versetti colui che predica, è piuttosto colui che cammina, diversamente dai brani precedenti non è in coppia con Giovanni ma è da solo e soprattutto è colui che vive dentro di sé e sa trasmettere agli altri la forza della risurrezione. Ecco, questi tre elementi attraverso Pietro danno, come dire, un volto diverso al responsabile della comunità. Il responsabile della comunità non è solo colui che forma da un punto di vista di contenuti, quindi di predicazione, i fratelli della comunità, ma è colui che visita le comunità, consolidando la loro fede, è colui che sa agire anche in solitudine pur di essere guidato dallo Spirito, ma soprattutto è colui che lascia agire dentro di sé la forza della risurrezione. Quindi il responsabile della comunità è colui che sa porre al centro della comunità il risorto, risollevando le sorti di tutti i fratelli della comunità, da chi si trova in una situazione di malattia come Enea, a chi invece è già stato coinvolto in un destino di morte. Ovviamente questi due elementi, la malattia e la morte, possono essere anche interpretati da un punto di vista simbolico. La malattia può essere intesa come le varie forme di peccato, debolezze umane che possono attenuare il coinvolgimento nel percorso cristiano dei fedeli, la morte invece come qualcosa di più grave che può totalmente inficiare il cammino cristiano. Quindi il responsabile della comunità non è solo colui che si interessa di comunicare dei contenuti, ma è colui che visita con attenzione le sue comunità e rende presente all'interno della comunità il risorto con tutta la dynamis che lo caratterizza. Quindi questi sono gli elementi introduttivi. Lasciamo ora un breve stacco musicale prima di leggere insieme, rileggere insieme la visita di Pietro a Enea, per vedere un attimo quello che emerge da questo racconto. Allora, noi riprendiamo la nostra riflessione proprio rileggendo l'episodio che coinvolge Enea, quindi la prima parte del brano che è oggetto oggi della nostra attenzione. Il testo dice: in uno dei suoi viaggi Pietro scese a visitare i santi che abitavano a Lidda. Qui trovò un uomo di nome Enea che da 8 anni giaceva su di un letto perché era paralitico. Pietro gli disse: Enea, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. Subito si alzò. Tutti gli abitanti di Litta e del Saron lo videro e si convertirono al Signore. Allora, cosa possiamo mettere in evidenza di questo brano? Allora, prima di tutto è l'obiettivo del viaggio di Pietro. In uno dei suoi viaggi Pietro scese a visitare i santi. Emerge subito l'attenzione pastorale di Pietro. Pietro non si accontenta di seminare la parola di Dio, di passare e annunciare il Cristo. C'è bisogno a un certo punto di tornare a visitare i fratelli. Sono quelle che diventano le visite che hanno come obiettivo quello di rafforzare, rinforzare la fede della Chiesa. È una caratteristica questa che ritroviamo anche nei viaggi missionari di Paolo. Subito dopo il primo viaggio missionario di Paolo e Barnaba, Paolo propone a Barnaba di tornare a visitare i fratelli per confermarli nella fede. E questo è un elemento essenziale. Il cammino cristiano ha bisogno pedagogicamente di alcuni momenti di verifica, di alcuni momenti in cui si porta con sé la capacità di consolidare, confortare, rafforzare il seme che è stato gettato. Ecco, Pietro si mostra come colui che ha questa sensibilità, questa attenzione, e non a caso nel momento in cui lui visita la comunità di Lidda, l'attenzione va subito su una persona debole. Questa persona, ed è il secondo aspetto che vogliamo sottolineare, è la persona di Enea. Il nome che qui viene riferito è un nome greco. Ovviamente, essendo un nome greco, alcuni su questo nome hanno costruito tutta una serie di ipotesi dicendo, ecco, abbiamo a che fare con l'apertura dell'annuncio al mondo pagano. Di per sé questo non è ancora evidente per Pietro. C'è un'apertura ai pagani che si sono convertiti al giudaismo, cioè si nota dal linguaggio anche che viene utilizzato nel contesto della guarigione che questo Enea è sì di origine greca, ma probabilmente aveva già aderito al giudaismo, quindi non è un pagano da tutti i punti di vista. È però posto qui all'interno della narrazione in un momento di transizione, dove dai giudei che si convertono al cristianesimo si passa ai giudeo-pagani, ai pagani che si sono convertiti al giudaismo, che agli ellenisti, cosiddetti ellenisti, che si convertono al cristianesimo. E anche da un punto di vista geografico si nota una certa dislocazione dell'annuncio missionario. Si era partiti da Gerusalemme all'inizio degli Atti degli Apostoli, poi il raggio di azione si era esteso a tutta la Giudea, dalla Giudea si era passati alla Samaria, ora ci si sposta nella regione geografica di Lidda. Lidda corrisponde più o meno a dove attualmente c'è l'aeroporto di Tel Aviv, più o meno, quella è la zona, Lod. E che è situata a 40 km a nord-ovest di Gerusalemme, sulla strada che portava poi a Joppe, la cosiddetta Giaffa attuale, no? Che si trova proprio a sud dell'aeroporto. Quindi quest'area, l'area di azione dell'annuncio missionario, si estende sempre di più. Quindi da un lato abbiamo la visita di Pietro, che ha come obiettivo quello di consolidare i fratelli nella fede, dall'altro abbiamo l'aumento del raggio d'azione dell'evangelizzazione. La parola di Pietro è significativa. Pietro gli disse, Enea, quindi il fatto di chiamare per nome, questo elemento lo ritroviamo anche nei racconti di risurrezione, dove ad esempio Maria di Magdala viene chiamata per nome, viene interpellata nella propria identità, Gesù Cristo ti guarisce, alzati. La sottolineatura di Pietro nel linguaggio che rivolge direttamente a Enea è quello di mettere in scena il Cristo vivo. La parola di Pietro è qui importante perché fa capire all'ascoltatore che non si trova davanti solo a Pietro, ma si trova davanti al Cristo vivo. Gesù Cristo ti guarisce. Gesù non è scomparso dalla scena della storia, continua a vivere in mezzo ai suoi. E il verbo che agisce è proprio il verbo della risurrezione. Gesù è in mezzo a loro come il risorto. E qui il brano ci permette di agganciarci un attimino anche alla liturgia che ieri abbiamo vissuto, no? La liturgia dell'Ascensione. Nel brano dell'Ascensione, soprattutto nel brano riportato dal Vangelo di Luca al 24, sapete, Luca è l'unico evangelista che dedica molto spazio al racconto dell'Ascensione, sia alla fine del suo Vangelo, all'inizio degli Atti degli Apostoli. E nella scena finale del suo Vangelo, Gesù si presenta ai suoi che hanno, come dire, timore di fronte all'apparizione di Gesù. E il testo dice che temevano di vedere un fantasma. Gesù mostra loro le mani e i piedi e poi anche di fronte a questo, i discepoli erano talmente stupiti che non credevano a quello che stava succedendo davanti a loro. E Gesù chiede di poter mangiare del pesce, di poter mangiare qualcosa, e gli offrono del pesce arrostito. Ecco, permettetemi un attimo di leggere questo brano perché è importante, molto associato al testo che stiamo commentando. Siamo al capitolo 24 del Vangelo di Luca, dal versetto 36 in poi. Luca dice: Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne ed ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito, egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Allora, è interessante questo brano perché fa capire alla comunità i due rischi che la comunità può correre davanti alla fede nella risurrezione. La prima è quella di pensare al risorto come una sorta di fantasma, come una sorta di essere spirituale che oramai non vive più su questa terra, vive nel mondo di Dio e non si interessa più della terra. Ora, di fronte a questo, Gesù dissipa ogni dubbio, mostrando, compiendo quel gesto. Il gesto dice: mostra loro le mani e i piedi. Perché mostra le mani e i piedi? I commentatori dicono: mostra le mani e i piedi perché portano il segno delle stigmate, il segno delle ferite dei chiodi, quindi le ferite che dicono il suo amore per l'umanità. È una bella lettura, però a mio avviso è ancora parziale. Mostra le mani e i piedi, secondo altri interpreti, e qui io sono più d'accordo, per sottolineare ai discepoli che lui è ancora in azione nella storia, cammina ancora in mezzo a loro, è in azione attraverso i suoi apostoli, quindi attraverso tutti i gesti di carità che compiono, è in cammino attraverso i messaggeri della buona notizia, i messaggeri del Vangelo. Ora, quello che avviene nel brano degli Atti degli Apostoli, che noi stiamo commentando, è proprio questo. Pietro agisce mostrando che le mani del risorto sono ancora all'opera, mostrando che i piedi del risorto sono ancora in cammino in mezzo alle comunità cristiane, portando quindi la risurrezione in mezzo a loro. E poi c'è il secondo elemento, il secondo dubbio che rinforza il primo, quando dice: ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualche cosa da mangiare? Ecco, perché Gesù mangia da risorto? Per sottolineare che la risurrezione della carne non è una pia poesia, non è una pia favola, ma è qualcosa di concreto. La risurrezione coinvolge tutta la realtà dell'uomo e i miracoli che vengono raccontati negli Atti degli Apostoli, in questo caso il miracolo che commenteremo dopo nel caso di Tabità, mostrano che la morte non ha potere sull'uomo nella sua globalità, non ha potere sul suo spirito, non ha potere sul suo corpo. Il corpo trasfigurato sarà anche lui oggetto di riscatto nel momento della risurrezione dei morti. Quindi la forza della risurrezione che è legata a questo brano è enorme. Tra l'altro, nella traduzione che noi abbiamo letto si dice che Enea da 8 anni giaceva su un letto. Qui ci sono due possibili interpretazioni, c'è chi dice da 8 anni giaceva su un letto o chi traduce Pietro, Enea giaceva su di un letto da quando aveva 8 anni, quindi non da 8 anni ma da quando aveva 8 anni, il che è un pochino diverso, cioè questa persona non sarebbe mai entrata nella vita adulta, nella pienezza della vita adulta, proprio perché da sempre paralizzato. Ora, il brano si conclude sottolineando un'altra dimensione dell'azione del risorto. Il testo dice: tutti gli abitanti di Lidda e del Saron lo videro e si convertirono al Signore. Quindi la dimensione forte dell'azione del risorto non sta solo nella guarigione del paralitico, ma nella capacità di trasformare la vita del paralitico e di tutti i presenti. E qua ci ricollega a un altro episodio del Nuovo Testamento, quando viene portato il famoso paralitico portato da 4 barellieri dove Gesù, prima di guarire il paralitico, dice: ti sono rimessi i tuoi peccati. Cioè l'azione del risorto, l'azione del Cristo, è un'azione che non ristabilisce solo la salute del fisico, ma la salute del fisico è esplicativa di una salute, di una guarigione ben più profonda, che è quella scandita dalla risurrezione, dalla conversione. Quindi si convertirono, interessante, si convertirono al Signore, al Kyrios. Il Signore è colui che rappresenta ovviamente anche il riconoscimento in Gesù del Messia. Quindi vedete come in questo testo, che rappresenta l'incontro tra Pietro ed Enea, ci sono diversi elementi che possono nutrire, illuminare il nostro cammino di comunità credente. Prima di tutto l'immagine di Pietro come colui che visita i fratelli, e torna qui l'elemento di fondo. Secondo è la percezione del risorto non come un essere astratto, lontano, spirituale, ma come una persona viva che cammina ed agisce in mezzo ai suoi. E poi la forza della risurrezione, l'incontro, l'interiorizzazione dell'annuncio della risurrezione, che si vive in tutto il tempo pasquale, si traduce sempre in un'azione di conversione. La conversione non è solo una dimensione del tempo quaresimale, ma anche del tempo pasquale, perché là dove passa il risorto brucia i semi di morte in tutte le sue dimensioni. Lasciamo ora un altro breve stacco musicale prima di passare al secondo incontro di Pietro, cioè quello con la discepola di nome Tabita. Leggiamo quindi il secondo incontro di Pietro. A Ioppe, dice il testo degli Atti degli Apostoli, c'era poi una discepola di nome Tabita, che significa gazzella. Faceva opere di carità e distribuiva molte elemosine. In quei giorni si ammalò e morì. La lavarono e la deposero al piano di sopra. Essendo Lidda vicino a Ioppe, i discepoli, udito che Pietro si trovava in quella città, inviarono da lui due uomini a pregarlo: «Vieni da noi senza indugio». Pietro si mise in viaggio con loro. Appena giunto lo condussero al piano di sopra. Gli si fecero attorno le vedove che piangevano e mostravano le tuniche e i mantelli che Gazzella confezionava quando era con loro. Pietro, fatti uscire tutti, si mise in ginocchio e pregò. Poi, rivolto al cadavere, disse: «Tabita, alzati». Ella aprì i suoi occhi e, veduto Pietro, si mise a sedere. Egli le diede la mano e la fece alzare. Poi, chiamati i santi e le vedove, la presentò viva. La cosa si riseppe in tutta Ioppe e molti credettero al Signore. Pietro rimase parecchi giorni a Ioppe, in casa di un certo Simone, conciatore di pelli. Allora, notiamo prima di tutto i parallelismi che esistono tra la guarigione di Enea e la risurrezione di Tabita. Sono parallelismi che evidenziano, come avevamo detto prima, un crescendo. Enea era semplicemente definito un uomo. Tabita viene detta non solo una donna, ma è una donna discepola, quindi ha una qualifica di vicinanza al cristianesimo molto maggiore. Enea è guarito da una paralisi. Tabita è restituita alla vita dalla morte. Noi non sappiamo niente dell'attività di Enea, di Tabita invece sappiamo che faceva un'azione caritativa di un certo rilievo. La malattia di Enea è constatata oggettivamente, mentre quella di Tabitha è drammatizzata ulteriormente dai lamenti di tutti quelli che gli stanno attorno. Nel caso di Enea non avevamo tutti questi elementi. Quindi sembra quasi una sfida che il narratore lancia a Pietro. Pietro ha guarito un paralitico, vediamo se sa sconfiggere anche la morte. Sembra essere un pochino questa la sfida che viene lanciata dal narratore. E la risposta che viene data da Luca è ovviamente una risposta affermativa. Perché? Perché non è Pietro che guarisce la paralisi, non è Pietro che restituisce la vita a una persona che è deceduta, ma è il risorto che interviene e restituisce la vita a una persona che è deceduta. Quindi questa è la prima sottolineatura. La seconda sottolineatura importante di questo brano è il richiamo ad alcuni episodi antico-testamentari dell'Antico Testamento. Se noi andiamo a rileggere le pagine dei Libri dei Re, noteremo che in queste pagine, nelle pagine dei Libri dei Re, ci sono dei racconti di risurrezione, di ritorno alla vita. L'abbiamo nel caso di Elia con il figlio della vedova di Zarepta, ma l'abbiamo anche nel caso di Eliseo al capitolo 4 del secondo libro dei Re. Mentre la guarigione del figlio della vedova di Nain operata da Gesù, la risurrezione del figlio della vedova di Nain operata da Gesù, sembra ispirarsi al miracolo di Elia, nel caso di Tabitha il narratore sembra invece ispirarsi al caso del discepolo di Elia, cioè al caso di Eliseo. E questo è importante perché ci fa capire come il Nuovo Testamento, in tutte le sue pagine, per essere compreso a fondo, ha sempre bisogno di una chiave di lettura imprescindibile. Questa chiave di lettura imprescindibile è l'Antico Testamento. E qua mi ricollego al brano che ieri veniva proposto proprio dalla liturgia ambrosiana in occasione della liturgia dell'Ascensione, di cui prima abbiamo letto il pezzo, no? Dove Gesù si manifesta ai suoi, rischiano di prenderlo come fantasma, poi ancora non credono, Gesù chiede di mangiare qualcosa, poi il testo continua dicendo: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi, bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Ecco, il brano che noi stiamo meditando è anche qui la concretizzazione di tutto questo. Perché? Perché la chiave di lettura di questo brano la troviamo nell'Antico Testamento, negli episodi di Elia ed Eliseo che hanno restituito alla vita delle persone decedute grazie alla forza operante del Dio vivente, il Dio vivente che è in mezzo alla sua comunità. Ora, attraverso la ripetizione di questo gesto, il narratore ci fa capire che Mosè, la legge e i profeti sono quelli che avevano già annunciato quanto sta succedendo in questa seconda comunità, nella comunità di Giaffa o Ioppe che sia. Quindi il primo aspetto da sottolineare è questo richiamo continuo, una sorta di tandem tra l'Antico e il Nuovo Testamento, dove la circolarità tra un brano e l'altro aiuta a illuminare il testo. Altro elemento importante è la sottolineatura della figura che è affetta dalla morte, Tabitha. Tabitha non è una discepola qualunque. Perché il termine che viene identificato per definire questa discepola è matetria. Matetria è un termine greco che non indica solo la discepola, ma indica la responsabile della comunità. E è la prima volta che noi troviamo nel racconto degli Atti degli Apostoli una figura femminile, fatto salva la figura di Maria ovviamente, una figura femminile che è referente responsabile di una comunità. e capiamo che era responsabile della comunità anche per il ruolo che attribuiscono a Tabità le altre donne, le vedove. Sembra muoversi attorno alla figura di Tabità tutta un'azione caritativa che parte da lei, e la sua casa sembra essere la casa dove la comunità si raduna, tanto vero che è una casa tra l'altro spaziosa, con un secondo piano, dove sembra annunciarsi quelle che erano le chiese domestiche, era una sorta di patrono, della matrona, meglio, della società greco-romana, dove l'organizzazione della comunità sembrava, come dire, essere legata proprio alla sua figura. E compare anche attorno a questa figura un gruppo femminile, che è il gruppo delle vedove, che qui sembra assumere un ruolo quasi istituito. Noi sappiamo che nella cultura del primo secolo le vedove facevano parte di, come dire, quei gruppi sociali un pochino più esposti alla povertà, perché una volta che rimanevano vedove, che moriva il marito, se non avevano il padre ancora vivo, rischiavano di non avere più nessun mezzo di sussistenza. Se non avevano figli e non avevano un padre vivo, chi si interessava di loro? Ecco, allora la comunità cristiana, attenta alle marginalità della storia, crea il gruppo delle vedove, quello che poi incontreremo nelle lettere di Paolo, il gruppo delle vedove, che vengono prese, come dire, in carico per certi aspetti dalla comunità, mentre in cambio, ecco, loro si dedicano a quelle che sono le attività caritative della comunità. E qui l'attività caritativa si manifesta in queste tuniche e mantelli che vengono confezionate probabilmente per le persone più povere. Quindi un gruppo organizzato, il cosiddetto ordine delle vedove, che ruota attorno a questa figura femminile, Tabità, che sembra essere la referente della comunità. Quindi non abbiamo solo a che vedere con una donna, ma con un'istituzione che fa particolarmente riflettere, perché è una comunità che, insomma, si lascia guidare anche da questa figura femminile. E infine c'è un ultimo dettaglio che merita di essere sottolineato, oltre ovviamente al discorso della guarigione. Ancora una volta la guarigione viene descritta in un modo molto particolare, con la ripetizione del verbo della risurrezione, il verbo alzare. Tabità, alzati, ella aprì i suoi occhi e veduto Pietro si mise a sedere, gli le diede la mano e la fece alzare due volte, come nel caso di Enea. Poi ci viene detto che Pietro rimase parecchi giorni a Giaffa, Ioppe, in casa però di un certo Simone, conciatore di pelli. Quindi noi abbiamo da un lato Pietro che visita una comunità sostanzialmente tutta al femminile, gestita da una donna, opera una guarigione importante all'interno di questa comunità, firmando, sottoscrivendo la formazione di questo tipo di comunità. Questo conferma che agli inizi del cristianesimo non c'era nessun tipo di discriminazione tra una comunità e l'altra. Secondo elemento, Pietro va a abitare a Ioppe da un conciatore di pelli. E anche questo fa riflettere, perché il conciatore di pelli, per eccellenza, era uno dei lavori considerati impuri dalla tradizione ebraica. Prima di tutto per il tipo di contatto che comportava. Il conciatore di pelli scuoiava gli animali e quindi era costantemente accanto al sangue, e il sangue era veicolo di impurità. Ma anche il conciatore di pelli non abitava certamente al centro di una città, abitava ai margini della città, perché era un lavoro maleodorante a motivo proprio delle carcasse di animali con cui veniva in contatto. Quindi ci troviamo a che fare con un Pietro che non abita certamente nel palazzo migliore della città, ma abita ai margini di questa città, a contatto con una persona che sicuramente non era vista di buon occhio, ma che probabilmente ha un cuore grande per aderire al cristianesimo. Quindi abbiamo un cristianesimo, nella figura di questo Pietro che visita le comunità, capace di abitare i margini della storia, capace di abitare i poveri della storia. E allora notiamo come la forza del risorto, quel risorto che ha mostrato le mani e i piedi ai suoi discepoli, veramente continua ad agire e a camminare nelle sue comunità, ma in tutti gli angoli della comunità, da quelli più luminosi a quelli che magari erano visti con un certo imbarazzo, con un certo disagio, almeno da alcuni membri della comunità. Ecco, questa sera abbiamo riflettuto insieme su questi due episodi, l'incontro di Pietro con Enea da un lato, l'incontro di Pietro con Tabità, questa donna dal nome aramaico che poi viene tradotto con gazzella, Dorcas, per gli ascoltatori di lingua greca. Quindi spero che anche questi due brani abbiano potuto in qualche modo illuminare il cammino di ciascuno di voi ascoltatori. Ora inizia la seconda parte della nostra trasmissione. Come sapete, ogni volta io lascio tre quarti d'ora alle vostre domande, in modo da continuare ad approfondire, a riflettere sui temi che abbiamo condiviso, grazie anche al vostro aiuto. Ora dalla regia vi daranno le indicazioni per intervenire nella trasmissione, dopodiché continueremo la nostra riflessione grazie ai vostri interventi. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Sì, buonasera, mi chiamo Paolo e chiamo dalla provincia di Firenze. Mi dica, Paolo. Allora, la domanda mia è questa. Nella sua catechesi risulta che quelli che presiedevano le comunità, a un certo punto in nome di Gesù Cristo, guarivano le persone. E ce ne sono tanti di questi esempi. Perché oggigiorno non c'è più questo? Va bene Paolo, ti ringrazio per questa domanda e cerco di rispondere. Allora, noi dobbiamo tenere presente una cosa, no? Che nella narrazione dei Vangeli, degli Atti degli Apostoli, i racconti ovviamente sono condensati. Noi abbiamo interi anni, interi periodi che sono condensati in pochissimi capitoli. Se io prendo il Vangelo di Marco, ad esempio, il Vangelo di Marco, 16 capitoli, condensano più di 3 anni di ministero pubblico di Gesù. E all'interno di questi 3 anni di ministero pubblico di Gesù, con tutti gli incontri che Gesù ha avuto, l'Evangelista tiene a evidenziare la forza di Gesù. La prima parte è tutta dedicata sostanzialmente ai miracoli, nella seconda i miracoli scompaiono. Ugualmente gli Atti degli Apostoli, Luca racconta la storia della comunità cristiana, qui l'arco di tempo si estende enormemente, non è certo di 3 anni, ma molti, molti di più, e in questo grande arco di tempo vengono scelti alcuni episodi. Gli episodi che sono scelti vogliono mettere in evidenza l'azione del risorto e quindi danno particolare evidenza a quei segni eclatanti. Ora, se noi dovessimo raccogliere la storia delle nostre comunità cristiane oggi in un testo breve, sicuramente anche noi metteremmo in evidenza l'azione straordinaria operata dalla grazia. Se noi ci guardiamo attorno, non dico in una sola comunità, ma a livello della comunità intera ecclesiale, guardate che di miracoli, ma ce ne sono tantissimi, dai miracoli della conversione, ad alcuni miracoli di guarigione, ad alcuni miracoli di liberazione dal male. Facciamo anche solo una riflessione, se noi guardiamo il calendario con tutti i santi e i beati che la Chiesa ha riconosciuto, solo quelli che la Chiesa ha riconosciuto, io non so quanti sono numericamente, ma sono tantissimi. Ora, noi sappiamo che, fatta eccezione dei martiri, tutti gli altri per ricevere il titolo di beato o di santo devono aver almeno compiuto un miracolo riconosciuto da una commissione, non da persone pie, da una commissione scientifica. Quindi significa che quei miracoli sono avvenuti. Chi di voi è andato a Lourdes sa che a Lourdes c'è un ambito, una commissione, più correttamente, deputata al vaglio dei miracoli. Questa commissione non è che riceve la documentazione dei miracoli una volta all'anno, ma ne ricevono di documentazioni, solo che poi devono essere valutate, vagliate e poi arriva il riconoscimento, c'è una pubblicazione anche annuale che riporta questo, cioè per dire, se vogliamo i miracoli, ci sono anche oggi, magari non li vediamo in quello che è il nostro vicino di casa, solo perché noi abbiamo una certa concezione di miracolo nella nostra testa. Siamo però attenti a un'altra cosa, cioè nei racconti neotestamentari, sia dei Vangeli, sia della comunità cristiana narrata da Luca, i miracoli sono segni della presenza del risorto, ma a un certo punto non hanno la priorità nella narrazione. A un certo punto possono persino essere rischiosi e diventare elementi devianti. Ciò che importa è vedere il Cristo che agisce in mezzo ai suoi. E la capacità di vedere il Cristo che agisce in mezzo ai suoi richiede quell'apertura di mente e di sguardo che vede Dio in azione attraverso tantissimi gesti di carità, tanta capacità di coraggio e di rischio nel visitare le comunità di ieri e le comunità di oggi. Grazie Paolo della tua domanda, che era una domanda molto schietta, e spero che la risposta che ho dato possa avere un pochino contribuito a chiarire i tuoi dubbi. Grazie. Pronto? Pronto? Sì, con chi parlo? Pronto padre, buonasera padre. Sono Gregorio, chiamo da Roma. Dimmi Gregorio. Sì padre, allora è stata bellissima sta catechesi su San Pietro, io volevo chiederle, non so se è molto attinente alla sua catechesi, però gliela faccio brevemente la domanda. Allora, nei Vangeli, negli Atti degli Apostoli, Gesù incontra la suocera di Pietro, e lei padre mi può dare uno spunto, un documento dove posso documentare sulla figura di San Pietro, che ne so, uno spunto, un documento in cui si parla della storia familiare di San Pietro. Sì, certo Gregorio, guarda, il suggerimento che ti do è molto semplice, tu vivi a Roma, quindi per te la cosa è facilissima. A Roma noi abbiamo ben 4, 5, anche di più librerie, entri in una libreria San Paolo o Paoline, chiedi una biografia dell'Apostolo Pietro adatta a te, loro te ne mostreranno almeno 6-7 di quelle che esistono attualmente in commercio, e ti diranno le caratteristiche di ognuna, ci sono quelle più scientifiche, quelle che hanno un taglio più pastorale, quelle che hanno un taglio più meditativo, spirituale, ecco tu scegli quella che ti sembra più adatta per te e vedrai che lì trovi la risposta alla tua ricerca. Ecco, è sempre importante l'atteggiamento di cui ci ha dato testimonianza Gregorio. Gregorio vuole approfondire quello che sta dietro Pietro, sta dietro l'Apostolo Pietro. Penso che sia una cosa importante per tutti, perché quando noi conosciamo il contesto da cui vengono alcune figure dei Vangeli, del Nuovo Testamento e dell'Antico Testamento, capire il contesto ci permette di capire molto di più il cammino personale e spirituale che queste persone hanno fatto. Pensiamo ad esempio al confronto tra Pietro e Paolo. Pietro e Paolo vengono da due orizzonti che sono molto diversi l'uno dall'altro. Pietro viene dalla Galilea, Paolo è un uomo di città, viene da Tarso, Pietro è un pescatore, Paolo ha studiato sodo, ha studiato da fariseo nei gruppi più austeri di Gerusalemme. Pietro è la persona generosa che si lascia ammaestrare, che si lascia coinvolgere dal maestro di Galilea. E Paolo è più colui che ammaestra gli altri, è più colui che resiste al pungolo. Ecco, conoscere il contesto da cui provengono queste due persone, che diventano tutti e due dei giganti della cristianità, al punto da essere le colonne della Chiesa, ci aiuta a capire il percorso che loro hanno fatto. Ecco quindi l'interessante ricerca di Gregorio, che può facilmente essere trovare una risposta andando semplicemente in una libreria religiosa, può anche interpellare noi e quindi continuare ad approfondire in altro modo quello che insieme stiamo commentando può essere utile. Grazie quindi Gregorio per la tua domanda e ricerca. Pronto? Pronto, buonasera Don Giacomo, sono Agata da Palermo. Sentivo lei, la catechesi, che diceva delle vedove di Talita, mi hanno fatto riflettere, come, anche se se ne è parlato, come dal momento dell'Annunciazione, come Gesù abbia portato l'emancipazione femminile, tant'è vero che la Madonna va da Elisabetta sola, incinta, e si avventura. Poi penso che Gesù ha portato appunto l'emancipazione sulla donna e questa un'altra domanda che le vorrei fare, perché mi confondo purtroppo, un'altra domanda è quella della Madonnina che rimane sola, appunto dato che le vedove erano povere, al momento della morte di San Giuseppe, e chiaramente poi c'è la passione. Forse viene accolta dagli stessi apostoli, viene coadiuvata dal. Ecco perché c'è la famosa frase: ecco tua madre, ecco tuo figlio. Oltre a tutta la nostra vita, della Chiesa, come Maria, madre della Chiesa, però è anche un modo di fare coadiuvare la madre dagli apostoli. Non so se sono stata chiara, padre, l'ascolto per radio. Grazie di cuore Agata, da Palermo sei stata chiarissima in tutte le due domande. Vediamo se riusciamo a rispondere a questi tuoi due interrogativi. Allora, primo interrogativo, Gesù ha portato l'emancipazione femminile. Allora, usare il concetto di emancipazione non lo so, non so se è adatto per Gesù. Mi sembra che Gesù, abbia portato semplicemente l'umanità al suo disegno originario, e nel suo disegno originario non c'era uno che era più dell'altro, l'uomo non era più della donna o la donna era inferiore all'uomo. Quindi Gesù ha semplicemente portato avanti il disegno del Padre, che questo poi significasse emancipazione della donna nel contesto del primo secolo, questa è un'altra cosa, però Gesù ha portato avanti il disegno del Padre, e nel disegno del Padre l'uomo e la donna sono creati per essere mutuamente e vicendevolmente corresponsabili della storia della salvezza, custodendosi e costruendo grazie alla diversità vicendevole. Ecco perché la Chiesa giustamente punta il dito su tutte quelle espressioni che cercano di annullare la diversità. Perché? Perché la diversità è una ricchezza, fa parte del disegno creaturale di Dio. Quindi Gesù ha portato all'emancipazione, direi indirettamente sì, ma direttamente Gesù ha portato avanti il disegno del Padre. E direi anche, stiamo attenti ad attribuire tutto questo a Gesù, perché la Sacra Scrittura porta con sé una storia che è molto più ampia. Dicevamo prima questa circolarità tra Antico e Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento noi abbiamo delle figure femminili che poi sono state anche rilette dalla tradizione spirituale come prefigurazioni di Maria, che hanno avuto un ruolo chiave straordinario. Pensiamo a Sara. Abramo senza Sara sarebbe un disastro. Pensiamo a Rebecca. E il disegno sul popolo di Israele è avvenuto grazie a Rebecca, non a suo marito Isacco, che praticamente alla fine della sua vita era mezzo stordito e non si accorgeva di quello che succedeva attorno a sé. Pensiamo a Rachele. Rachele, la donna forte accanto a Giacobbe, che è tenace, fino in fondo va pur di avere quei suoi figli che saranno poi i figli della predilezione, Beniamino e Giuseppe. Ed è curioso, le donne compaiono sempre come grandi figure sapienti laddove gli uomini sono dormienti. Eva nasce dal costato di Adamo durante il sonno di Adamo, Sara emerge accanto a un Isacco che si addormenta nel momento dell'alleanza stipulata al capitolo 15 del libro della Genesi, l'alleanza più importante dell'Antico Testamento. Rachele emerge da colei che è posta al fianco di un Giacobbe che è conosciuto per la famosa notte dormiente dove vede quella scala che scende dall'alto, o la notte della lotta allo Yabbok. E così anche Maria. Maria è la donna dell'uomo dei sogni, Giuseppe, che verrà reso partecipe del disegno di Dio durante il sonno. È curioso, ma è così. Tutte le volte che abbiamo degli uomini dormienti emergono delle donne sapienti nella storia della salvezza. Poi da parte sua c'era una seconda domanda: cosa succede a Maria dopo la morte di Gesù? Maria nella prima comunità è colei che viene custodita dalla comunità cristiana, o c'è qualcosa d'altro? In quel "ecco tua madre" c'è una consegna di Maria al discepolo perché questa sia custodita, o c'è qualcosa d'altro? Sicuramente questa dimensione c'è, ma non è la dimensione prioritaria. Maria nella prima comunità cristiana, così come viene presentata negli Atti degli Apostoli, non è colei di cui la prima comunità si deve prendere cura, ma è colei che si prende cura della prima comunità, cioè viene presentata accanto ai discepoli come colei che li forgia, come colei che non ha bisogno tanto di essere custodita, ma che ha ancora la tenacia, il vigore della mamma forte, della madre forte, che rende i discepoli come il figlio. Cioè sembra che il compito affidato a Maria dagli Atti degli Apostoli sia quello di fare di loro delle persone dove anche il Cristo prenda forma, che arrivino al dono di sé come è arrivato al dono di sé il figlio per eccellenza, cioè Gesù. Quindi grazie Agata di queste domande, che come vedi erano domande particolarmente significative e preziose. Pronto? Sì, pronto. Sono Marcello da Bergamo. Oh, bene Marcello, sei mio conterraneo, anch'io sono di Bergamo. Fammi una domanda interessante. No, ascolta, volevo chiederti questo, Don Giacomo. Mi sembra, cercando di andare alla messa il più possibile, anche se lavoro, giorno sì, giorno no, almeno nei giorni feriali cerco di andare alla messa, sentendo dopo la Pasqua le letture, gli Atti degli Apostoli, è una cosa di una potenza impressionante. Cioè io vedo come loro avevano una certezza, una forza che fino a poco prima non avevano più, anzi erano rimasti disagiati da tutto quello che è successo, no? Ecco, per me la resurrezione, almeno io vivendo l'esperienza nella comunità, in un movimento in particolare, percepisco sempre questa risurrezione di Gesù come una positività, che in questo momento, tra l'altro, di depressione generalizzata, di smarrimento totale, porta dovunque, anche grazie a me, attraverso di me, che pur sono così grande peccatore, mi confesso una o due volte al mese al santuario di Caravaggio, no? Perché casco sempre dentro gli stessi errori. Però questa potenza è talmente evidente, è talmente opera sua, come dicevi tu, che è Cristo che agiva anche attraverso di loro. Ma è una cosa che io proprio sento che dobbiamo percepire noi credenti come un qualcosa che ci cambia adesso e che ci rende talmente protagonisti dentro nelle piccole cose del lavoro, il coraggio di dire certe cose oppure di dare un giudizio o andare avanti nella sofferenza coi figli o con una persona malata. Ma mi sembra una potenza incredibile, Cristo è risorto, resurrexit sicut dixit. Ecco, volevo chiederti, questa forza che lui ci ha dato e che è sua, non è roba nostra, non è una cosa che mi creo io, ma è che il Papa continua a dirci anche a noi del movimento, ci ha corretti e ci dice guarda che è l'opera di un altro, quando Don Giussani ha iniziato il movimento era una potenza, cioè siamo noi che limitiamo, mi spiego, siamo noi col nostro pessimismo e con la nostra depressione attuale che oscuriamo questa cosa, eppure c'è Cristo presente, è Lui l'attore che risorge e che tutti i momenti riesce attraverso di me a parlare a chi ho vicino e io riesco a vederlo attraverso chi ho vicino. Volevo una conferma di questa, cioè non essere troppo diciamo ottimista io, ma a me sembra che la risurrezione è veramente una cosa dell'altro mondo, cioè che risveglia dovunque, anche nella sofferenza più totale. Ti ringrazio e spero di partecipare sabato alla veglia per i nostri fratelli martiri che muoiono oggi per Cristo appunto. Grazie. Grazie Marcello, grazie della tua testimonianza che è carica della risurrezione di cui parlavi, quindi grazie davvero. Ecco, non ho molto da aggiungere a quello che tu hai detto perché mi trovo ovviamente in piena sintonia con quello che hai espresso. Evidenzio solo due aspetti, no, del tuo intervento. Il primo aspetto dicevi, lo dico sorridendo, la risurrezione è una cosa dell'altro mondo. In un certo senso sì, ma grazie a Dio non è più una cosa dell'altro mondo, è una cosa che ha fatto irruzione nel nostro mondo. La sfida più grande è lasciare che la risurrezione abiti la nostra vita. Giustamente tu dicevi ci sono contesti di depressione, di malattia, di timori, di paure, eppure il Signore si prende congedo dalla scrittura mostrandosi nel libro dell'Apocalisse come colui che sta alla porta e bussa. La risurrezione è così, sta alla porta e bussa continuamente e nel momento in cui noi apriamo questa benedetta porta e lasciamo entrare la risurrezione, la cosa più bella che fa il risorto qual è? Si mette a tavola. Mettersi a tavola nel primo secolo significava stringere una familiarità unica con la persona con cui ci si inseriva a tavola. Era un gesto non solo di amicizia, ma di alleanza, di legame, di comunione. Ecco, la risurrezione è così, vuole entrare nella nostra vita in questo modo. Il secondo aspetto che volevo sottolineare della testimonianza di Marcello è la sua partecipazione a un movimento, nel suo caso il movimento di comunione e liberazione. Vedete, nel cammino di fede, spesso abbiamo bisogno di essere accompagnati da una comunità. La presenza dei movimenti nella vita della Chiesa è un segno dell'azione del risorto. Prima Paolo chiedeva dei miracoli, no? Come mai oggi i pastori di oggi non fanno miracoli? Ma proviamo a guardare la vita di tutti questi fondatori di movimenti, di congregazioni, ma la loro vita è un miracolo continuo. È un miracolo continuo e la prova che è un miracolo continuo è il fatto che la risurrezione agiva attraverso di loro e continua ad agire attraverso di voi. Ma ditemi voi se da un Giussani poteva nascere un movimento come quello di comunione e liberazione. Se da un Don Alberione, che rischiava quasi di morire appena è nato, che è il mio fondatore, potevano nascere 5 congregazioni religiose, degli istituti aggregati, un'associazione di cooperatori. Ma chi l'avrebbe detto? Chi l'avrebbe detto? È il risorto che agisce in queste persone. E che poi si fa compagno, continua a farsi compagno di queste persone attraverso proprio coloro che si lasciano plasmare. Quindi grazie davvero Marcello della tua testimonianza e mi raccomando, la prossima volta che vai al santuario di Caravaggio porta anche tutti noi e soprattutto il conduttore di questa sera. Grazie Marcello. Pronto? Sono Daniela da Bologna. Mi dica Daniela, anche lei chiama da una bella città, Bologna, mi dica. No, io volevo che mi chiarisse il collegamento con la lezione che è tenuto oggi, con il rito ambrosiano di ieri. Sì. Perché da noi dicono sempre con altre letture. Certo. Allora, certo Daniela, da noi nel rito ambrosiano ieri la lettura era proprio la scena dell'ascensione che viene narrata alla fine del capitolo del Vangelo di Luca, quindi non c'era la finale di Marco, ma c'era la finale del Vangelo di Luca. Ecco, siccome Luca è l'autore anche degli Atti degli Apostoli, quindi del brano che qui viene narrato, è evidente che ci sono alcuni punti fermi che Luca associa al risorto e che ritroviamo negli episodi narrati degli Atti degli Apostoli. Cioè una caratteristica della narrazione lucana è mostrare come gli apostoli siano a un certo punto coloro che continuano il ministero di Gesù. Continuano il ministero di Gesù, cioè il Cristo ha preso forma in Pietro, in Paolo, in Filippo, in Stefano e quindi continua il suo ministero. Quell'incontro che Pietro fa con Enea da un lato e Tabità dall'altro riprendono alcune scene di miracoli che sono avvenuti attraverso Gesù nel Vangelo. Pensiamo alla risurrezione del figlio della vedova di Nain, pensiamo all'incontro con il centurione, cioè sono tutti episodi che in qualche modo, pensiamo alla guarigione del paralitico, sono tutti episodi che in qualche modo ripropongono l'azione di Gesù. E la dimostrazione di questo sta nel modo in cui avviene la guarigione. Gesù diceva: ti sono rimessi i tuoi peccati, alzati e cammina. Pietro dice: Gesù ti guarisce, alzati e poi continui il racconto, aspetti che rileggo il testo, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. Tra l'altro anche qua c'è questa nota curiosa, al paralitico Gesù aveva detto: alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Qui invece Pietro dice: Gesù Cristo ti guarisce, alzati e non stai a prendere il tuo lettuccio, ma rifatti tu il letto. Qui gli interpreti dicono: ma come mai dice all'uomo di rifarsi il letto? La risposta che viene data è un segno che la persona è veramente reintegrata nella normalità della sua vita. I paralitici erano portati su una specie di barella, su un lettuccio e lì stavano a vita. La prova che Enea è stato reintegrato è che anche lui può prepararsi il letto come tutti gli altri e dormire su una semplice stuoia, quindi alzati e preparati, rifatti il letto, il verbo greco è srotola la stuoia praticamente, cioè puoi anche tu stenderti come tutti gli altri, puoi anche tu essere autonomo nei tuoi movimenti, non hai più bisogno di qualcuno che ti serva attorno a te perché sei reintegrato nella tua autonomia, però sono tutti miracoli, sono tutti segni che dimostrano come Gesù è continuamente vivo, non è un fantasma, ma è uno che attraverso i suoi apostoli, Pietro e Paolo, continua ad essere presente con le sue mani, con i suoi piedi, in mezzo ai primi credenti. Grazie Daniela della tua domanda, perché ha permesso di chiarire qualcosa che magari era oscuro anche ad altri. Pronto? Pronto, buonasera dottor Erico. Sono sì. Alessandro da Roma. Volevo fare due domande brevi. Dunque, la prima è: quanti sono in totale i casi di risurrezione nell'Antico Testamento? Uno. E la seconda domanda è se ci sono indicazioni precise da parte degli studiosi che i miracoli di Gesù sono stati narrati letterariamente sul modello dei miracoli dell'Antico Testamento, come lei aveva accennato. E nello specifico se anche il caso di Lazzaro ha un riferimento nell'Antico Testamento. Grazie. Allora, la ringrazio per la sua domanda. Alla prima non so rispondere, nel senso che non sono in grado di darle un numero preciso, dovrei un attimo fermarmi e studiare la cosa. Certamente ci sono dei casi di ritorno, di restituzione della vita, di ritorno alla vita. Allora io prima ho citato soprattutto Elia ed Eliseo, che sono i casi più grandi, ma non mi sembra siano i soli, anche se in questo momento non me ne vengono in mente altri, però sicuramente non penso ci siano solo quelli, non penso ci siano solo quelli, anzi ci sono anche delle scene simboliche di morte dove la persona viene restituita alla vita. Pensiamo anche al caso di Giona, Giona che viene gettato nel mare, che finisce nel ventre della balena, è tutta un'evocazione di un'immagine di morte, che però poi viene restituito in un certo senso al discorso della vita. Quindi non sono in grado di dire quanti siano i casi di risurrezione nell'Antico Testamento. Confermo il fatto che i miracoli di risurrezione del Nuovo Testamento, anche se poi farò una precisione terminologica, il concetto di risurrezione non è del tutto corretto, i casi di risurrezione del Nuovo Testamento riprendono come modello narrativo le scene dell'Antico Testamento, e qui basta prendere un commento dettagliato ai singoli Vangeli, e gli esegeti in genere fanno tutti questi parallelismi, cioè si trovano in ogni testo che abbia un minimo di esegesi al suo interno. Però tengo a precisare questo, attenzione, questo non significa che la narrazione fatta da Luca, da Marco, Matteo sia semplicemente una riproposizione simbolica di qualcosa che è stato narrato nell'Antico Testamento. No, si parte da concetti reali che però contengono dentro di sé una dimensione di mistero così alta che è difficile trovare un codice narrativo esplicativo adeguato. Per cui gli evangelisti, per raccontare questi episodi e per rispettarne il mistero, cercano in qualche modo di riprendere lo schema dell'Antico Testamento, per dire è un'unica storia della salvezza che agisce, è l'unico Dio della vita che agisce, ha agito nell'Antico Testamento, ha agito nella pienezza della sua potenza in Cristo. Tanto vero che i racconti che hanno come soggetto il Cristo e gli Apostoli, rispetto ai racconti antico-testamentari, sono caratterizzati da un forte crescendo. Ultimo elemento è l'elemento terminologico. L'elemento terminologico è questo, cioè perché non è corretto parlare di risurrezione, perché questi miracoli di ritorno alla vita, di sconfitta della morte, sono dei miracoli, tra virgolette, temporanei. Cioè le persone come Tabità o come il figlio della vedova di Nain o come Lazzaro, sono tutte persone che sì, tornano alla vita, ma poi muoiono ancora, non è che risplende in loro la pienezza della vita nuova. Cristo invece è tutta un'altra cosa, cioè la risurrezione di Cristo è la pienezza della vita che risplende in eterno, la morte è definitivamente sconfitta, si entra in una dimensione che è quella veramente del Padre Celeste, di Dio, ed è quella che attende tutti noi. Ecco perché il concetto di risurrezione, applicato a Tabità, Lazzaro o ai personaggi dell'Antico Testamento non è corretto, bisogna fare questi distinguo. Grazie Alessandro delle tue domande, mi dispiace non aver risposto con precisione alla prima, ma magari la prossima volta, approfondendo l'argomento, potrò ulteriormente precisare. Pronto? Pronto, sono Piero da Torino. Volevo dire la bellezza dell'incontro dei movimenti. Io ho incontrato un movimento a 44 anni grazie ad un amico che mi ha attirato, questo movimento del Cursillo di Cristianità. È un incontro, praticamente un ritiro di 3 giorni in cui si incontra un Gesù vivo, presente, che ci aiuta, che incontra, oltre che incontrare Cristo, ho incontrato anche me stesso. E che in questo frastuono, in questo ambiente, in questi rumori non è possibile. Volevo dire la bellezza dell'incontro dei movimenti e grazie della sua catechesi, Don Giacomo. Grazie a lei Piero per la sua testimonianza, perché effettivamente sono testimonianze preziose. L'incontro con i movimenti, l'incontro con una comunità cristiana viva, l'incontro con una comunità religiosa, il Signore ha un disegno per ciascuno di noi, è sempre segno di un Signore che è di un risorto che agisce nei nostri cuori e che nel momento opportuno ci fa incontrare la persona, la comunità, la realtà adatta per noi. Ecco, la ricchezza dell'essere comunità, dell'essere chiesa, e questo vale anche per le comunità parrocchiali, è quella di non fare il cammino di fede in solitudine. Il cammino di fede in solitudine non porta molti frutti. Quando invece ci si può confrontare con gli altri, la fede diventa più matura, perché si consolida attraverso la preghiera, le domande, il percorso delle altre persone e si è anche, sostenuti nei momenti di debolezza o nei momenti in cui siamo chiamati anche a esercitare la carità come espressione della nostra vita cristiana. Grazie Piero per la sua testimonianza. Pronto? Pronto, sono Paolo da Roma e volevo chiedere, volevo chiedere una precisazione, perché secondo me l'espressione che la morte è stata sconfitta è un'espressione un po' fuori luogo, nel senso che poi, come ha detto anche lei, Lazzaro poi muore, quindi la morte è ancora presente, nel caso di Gesù, essendo Dio, è per forza immortale, quindi alla fine non capisco, ecco, secondo me che la sconfitta della morte è un'espressione un po' fuori luogo in questo senso. E poi volevo chiedere, ecco, a cosa sia servita effettivamente la resurrezione. Grazie Paolo per le tue domande. Allora, certamente come precisavo prima, il concetto di risurrezione non è proprio quello del tutto adeguato per questi episodi. A che cosa è servito però? È servito per mostrare come all'interno della comunità cristiana la forza della risurrezione è veramente, cioè ha una forza che va oltre ogni limite umano, cioè il risorto in quanto tale ha la capacità di vincere ogni realtà segnata dal limite, sia questa realtà chiamata malattia, sia questa realtà chiamata morte, in tutte le sue dimensioni. Penso che questa dimensione sia una dimensione fondamentale della fede cristiana, cioè se gli apostoli non fossero riusciti a manifestare che la morte veramente era stata sconfitta dal risorto, non solo per lui, ma anche per gli altri, e che il risorto poteva in qualche modo varcare, superare il limite della morte, veramente, cioè il messaggio cristiano sarebbe stato fortemente impoverito. Ecco perché sia nel caso di Paolo, sia nel caso di Pietro, che sono le colonne della Chiesa, ma già nel ministero pubblico di Gesù questo è uno dei segni più forti dell'annuncio, uno dei segni che fanno del Vangelo il lieto annuncio. E qua stiamo attenti, non dobbiamo pensare solo alla morte fisica, pensiamo anche a tutti quegli aspetti della morte spirituale, del potere del peccato sull'uomo. Il peccato produce morte interiore, radicale. La capacità di Cristo di restituire alla vita, che poi avrà il suo risvolto sacramentale nel sacramento della riconciliazione, è uno dei lieti annunci più forti del messaggio cristiano. Certo, la pienezza si vivrà solo nel momento in cui noi saremo con Cristo, ma c'è un già che ci è donato. E questo già, che è preludio del non ancora, si manifesta in questi gesti, in questi racconti, ma anche nelle esperienze di vita personali, quando la morte del peccato viene, o la morte della depressione, o tante altre forme di morte, dell'egoismo, della chiusura, vengono superate in modo forte e inatteso grazie all'intervento della grazia di Dio. Quindi grazie Paolo per la tua domanda, spero con la risposta di aver fatto passare il messaggio vitale che c'è in queste pagine del Nuovo Testamento. Ecco, con questa domanda noi abbiamo concluso la nostra puntata. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e ci hanno veramente arricchiti con le loro domande o testimonianze. Quindi grazie a Paolo da Firenze, Gregorio da Roma, Agata da Palermo, Marcello da Bergamo, Daniela da Bologna, Alessandro da Roma, Piero da Torino e Paolo da Roma. Io ringrazio tutti voi ascoltatori e insieme a voi mi metto in attesa dei doni dello Spirito Santo, perché la Pentecoste, oltre ad essere una celebrazione liturgica, sia una celebrazione di vita. E per questo benedico tutti voi nel nome del Signore, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.